Oh. Ok. Prova. Ok, però possiamo andare. Si parte. Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi. Grazie soprattutto a Stefano Neri che ci permette di utilizzare questi spazi per la nostra trasmissione. Ringraziamo anche il nostro regista di stasera che è Sergio Leone e Fumino, introduciamo il nostro ospite di stasera. Buonasera a tutti, appunto Davide, il nostro ospite di stasera, un ospite per noi molto importante per continuare il nostro percorso alla ricerca della montevarchinità. Questo perché? Perché l'ospite di stasera è un ospite che non è originario di Montevarchi, ma che si è stabilito a Montevarchi ormai da tantissimi anni, tanto da essere considerato a tutti gli effetti da tutti un montevarchino vero e addirittura c'ha un bel soprannome. Allora, l'ospite di stasera è Sergio Avoscan, per tutti il parmigiano. Buonasera Sergio. Ciao, buonasera. Allora Sergio, partiamo da una curiosità. Com'è che c'hai questo soprannome? Sai chi me l'ha data a me? Il Livi. Il presidente Angelo Livi? Quando si giocava alla cosa, mi si chiama, alla Gina. E allora me l'ha dato lui. Però Sergio, iniziamo dall'inizio. Per me sei sempre stato montevarchino. Invece scopro stasera, anzi in realtà lo sapevo già, però facciamo finta, lo scopro stasera, che non sei di Montevarchi. Quali sono le tue origini? Io sono di Padova. Di Padova. E da quant'è che vivi a Montevarchi? 45 anni, a giugno. Quindi te in tutto questo tempo ti sei ben inserito chiaramente nel tessuto sociale montevarchino e poi sei soprattutto un tifoso dell'Aquila Calcio. Certo, sì. Da quanti anni più o meno segui l'Aquila? La prima volta che sono andato a vedere il Montevarchi avevo 10 anni, 12, quando venivo qui a vedere dei miei parenti, e allora mi portavano allo stadio, avevo 10 anni, elementari, al tempo di Scotto, Lucchesini, Pini, Bruni, Pelini. Quindi tante squadre ti sono passate sotto gli occhi fino ad oggi, e perché tu da quel tempo, da quando facevi le elementari, praticamente sei sempre stato presente per tutti i campionati al seguito del Montevarchi, a seguire le sorti. Ad esempio, qual è stato il campionato più entusiasmante da te vissuto nella sua interezza da quando segui il Montevarchi? Quando si andò in C1 nell'88. Poi nel 75, quando si è fatto la partita stando là, ho conservato anche il biglietto. Fino a qualche tempo fa l'ho perso, chissà in che cassetto è. 14 maggio del 95. Quindi il campionato più bello secondo te quello del 1987-88, in effetti quella era una signora squadra, è terminato, ricordiamolo, al culmine di uno spareggio incredibile contro la Massese nello stadio neutro di Empoli. Perché quello per te è stato il campionato più bello? Perché era la squadra più bella? Perché per qualche motivo ti sei divertito di più? Perché quello lì è stato il campionato che io mi sono più goduto, l'ho preso mio, quello è stato il migliore, per me è stato il più bello. Poi specialmente quando si è fatto il derby con l'Arezzo, che c'era 7.000 persone, anzi 7.200 presenze, con 140 milioni di incassi, è successo. C'era pieno, lo stadio non mi ha visto, i biliperi pieno come quei giorni. Quindi probabilmente di tutti gli anni che hai seguito in Montevarchi, quello è stato tra i tantissimi derby, sia con l'Arezzo che con altre squadre toscane, è stato probabilmente uno dei più partecipati. Beh, sì, sì. E quale fu il risultato della partita? Si pareggiò sempre. Si pareggiò. Per 1-1. Ma noi c'aveva la signora squadra più tempo lì, Marchisio, c'aveva una bella squadra. Poi si fece un bel campionato. Si calò la seconda parte come noi si è fatto sempre, l'andata si fa forte e poi si cala, anche nel 95 si fece così, al giro dell'andata c'erano 5 punti sulla seconda, si è toccato fare quasi gli spareggi, perché a gennaio e febbraio ci fu proprio praticamente da più 5 si andò quasi a meno 2, meno 3, più, con Braga, Bene Sergio, dunque, in tutta questa tua esperienza che è stata fin da bambino a Montevarchi, hai potuto anche vedere i cambiamenti che ci sono stati intorno allo stadio, intorno alla città, intorno ai montevarchini. Sappiamo di uno stadio senza curve perché già qualcuno ce l'ha detto, però per entrare più nello specifico, ci racconti come sono nati i gruppi di tifo organizzati a Montevarchi e tipo i primi striscioni che sono apparsi? Io partecipavo così, non che non ero un patavolese né cosa, comunque dalla seconda metà degli anni 70, verso il 76, ci fu i primi striscioni. Mi sembra il primo striscione era, aspetta, si vinse un campionato, non mi ricordo quale anno, c'era uno striscione, c'era che lungo, soprattutto che c'era scritto Ultras Montevarchi. Io gli ho dato lì 10.000 per lo striscione. Sì, quello fu il primo che è stato fatto, chissà dove, non si sa. E c'è una fotografia che c'è inviata, che c'è tutta la, i tifosi che vengono verso la stazione e con questo striscione lungo. Ma ora non mi ricordo quale anno di preciso. Quindi a metà anni 70 anche a Montevarchi iniziavano ad apparire i primi gruppi, sì, organizzati, e questo te lo ricordi bene. Sì, sì. Prima di allora, come ci si organizzava per andare a vedere le partite? Ognuno faceva di testa sua? C'erano gruppi comunque di amici che andavano sempre insieme? Spiegaci un po'. C'erano i vari gruppi, organizzavano pullman, poi andavano in macchina. Ma andava dai bar, bar centrale, Baruglioni, Cavasciutti, poi qualcuno da sé, e si andava in 4-5 in macchina, faceva anche chilometri. Ad esempio, dove sei andato nel posto più incredibile a quei tempi? A Massa, a Carrara, Viareggio, a parte le trasferte ne facevo poche a quei tempi lì. Però, quando era, si trattava della Toscana, sì, quando c'era fuori no. Perché magari tornavo tardi da parlare. Il divertimento. Ci mancherebbe quello. Una delle ragioni per cui esiste, ti racconto una storia, il volo dell'Aquila è quello di ricercare la cosiddetta montevarchinità attraverso le storie legate alla squadra cittadina. Da quello che ci ha raccontato prima ancora dell'organizzazione di tifo da un punto di vista ultras, il fulcro era sempre comunque i bar, che poi sono rimasti un fulcro centrale anche in seguito. Te che hai vissuto tutti questi anni a Montevarchi, potresti raccontarci un po' quali erano o come sono cambiate, diciamo, le geografie dei bar all'interno dei quali comunque i tifosi del Montevarchi si ritrovano, si ritrovavano, e come vivevano la passione all'interno dei bar? Bar dove si trovavano spesso e volentieri, il Bar Unione, il Bar Centrale, il Capasciuti e poi altri, Giglio, Alpestello, e lì organizzavano le trasferte. Oppure 4-5 amici prendevano uno, prendeva la macchina, caricava con gli altri 4 e andavano via. Ecco, erano un po' così. Se non funzionavano come punto di ritrovo, sì. Però secondo me, ora però non so quanto possa essere vero, dimmelo te, la sensazione è che una volta probabilmente il centro era più centrale anche da questo punto di vista, cioè i bar nel centro storico erano quelli di ritrovo. Più frequentati. Mentre oggi invece la situazione è andata un po' cambiando. Anche perché i Montevarchini sono andati in periferia. E ora in centro si parla tutto fuori. Qualche anno fa, seguendo in Montevarchi, giocammo a Reggello e ricordo di aver passato il pomeriggio tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo a parlare con alcuni signori di Reggello e mi raccontavano appunto che Diego Armando Maradona con il Napoli venne a giocare a Reggello una partita amichevole. Te eri presente in questa partita, ce la puoi raccontare? Perché il Napoli, quando c'era l'allenatore Lino Marchesi, perché Lino Marchesi quando allenava le squadre le portava tutte a Reggello, quasi tutte da portare, e quell'anno mi sembra che fosse il primo o il secondo anno che c'era Maradona a Napoli, c'era Rino Marchesi e portò il Napoli a giocare in ritiro a Reggello, e allora si allenavano nello stadio lì a Reggello e andavano a dormire fuori, non so se era un agriturismo, un albergo fuori. La sera che fanno? Scendono in paese, anche se non c'era nulla. E la sera avevano una piazza, lui era fuori da questa bar, c'era la gente piena la piazza. facci qualcosa, dici datemi qualcosa di tondo. Mi ricordo se era un'arancia o una pallina a ping pong. Fece 4-20 minuti di palleggio, forte a vederlo, perché era, poi era un 1,60 m, non era alto, però era i piedi ancora che a 60 rotiati, la classe si dimentica. E raccontaci un po', Sergio, tu che eri lì a Reggello e casualmente ti imbatti in Diego Armando Maradona, quindi avevi molto vicino quello che probabilmente senza dubbio si può citare come il calciatore che era considerato il dio dei calciatori in quel momento lì. E in effetti forse c'è chi dice Pelé, c'è chi dice Maradona, però ecco, la concorrenza è molto ridotta, sono due i calciatori che ci si ricordano a livello mondiale. Ma cosa hai provato? Che sensazioni ti ricordi di aver provato quando ti sei trovato di fronte a Maradona che ce lo avevi a 10 metri? Io non me l'aspettavo, meraviglia e cose. Ma non era mica tanto difficile anche andare a salutare e cosarlo. Ci salutava, ti cosava. Lei che aveva un mare di fronte, c'aveva un sacco di gente. Poi è stato un'oretta che poi era diventata un carosello lì. Allora andarono via, anche presto. Però c'è stata quell'oretta. Ma torniamo indietro ai tuoi primi anni in cui seguivi il Montevarchi Calcio, Sergio. Quali sono state le trasformazioni effettive dello stadio? Perché noi ora Brilli Peri lo conosciamo così com'è. Probabilmente se la società avesse delle mire per poter andare anche oltre rispetto alla categoria odierna, bisognerebbe rimetterci le mani. Però te probabilmente hai visto un Brilli Peri ancora più, tra virgolette, antiquato di quanto non sia rimasto negli anni e sia oggi. Dunque, innanzitutto le curve e le gradinate che non esistevano e l'hanno fatte negli anni 70, l'illuminazione che l'hanno fatta alla fine degli anni, che hanno rifatta come adesso, sembra negli anni 70, che ci portarono un Napoli o un migliore quale squadra di Serie A. Poi la rete, che prima c'era la rete da Polli, nell'88 fu fatta la rete che c'è adesso. Per il semplice fatto che con una partita con il Carbonia la gente sfondò le reti e andò in campo quasi. E allora ho omologata che la rete che c'è ora. Poi, siccome la gente saltava lo stesso, ci hanno fatto anche i reticolari. Alla fine sono riusciti a neutralizzare. Gli scavalchi. Perché a Montevarchi era costume scavalcare il campo. Sì, stati parecchi di gente fermata all'ultimo momento. Montevarchi è terra passionale, come probabilmente tante parti d'Italia lo sono. Alla fine la ricerca della montevarchinità è anche la ricerca un po' dell'uomo, ecco, di come si comporta l'uomo. E ci hanno raccontato un ospite qualche puntata fa di una scena epocale contro un arbitro nella partita contro il Foligno degli anni 70, non ricordo bene l'anno. Tu ti ricordi l'arbitro che è volato nel Berignolo? Il Berignolo era quello Battagli, era servito dai tifosi di Montevarchi, lui per evitare se ne è preso e si tuffò il Berignolo di Battagli, che passa lì accanto, no? Squalifica il campo, sai. Ma non è stato il solo arbitro che ha fatto la fuga, C'è stato arbitri nascosti dentro le macchine della polizia, sono scappati, c'è stato arbitri che sono stati rimasti chiusi fino alle 9 la sera dentro i spogliatoi, l'ultimo arbitro ha avuto 3.000 euro, mi hanno fatto 3.000 euro di danni alla macchina, insomma non è che siamo stati con l'arbitro. È stata una bella battaglia. E poi mi immagino che il tifo montevarchino abbia continuato ad usare il Berignolo come spauracchio contro gli arbitri. Dunque, tu avendo visto tanto calcio passato da Montevarchi nelle nostre categorie, però il calcio ad esempio degli anni 70, il calcio degli anni 80, era molto diverso dal calcio di oggi. Negli anni 70 così c'era il catenaccio, difesa, e poi il contropiede. Ora si vede più giocare anche nelle categorie piccine. Una volta era palla avanti e pedalare. Tra la Serie D e la C c'era un divario. Infatti se non eri molto preparato, molto esperto, parecchie arrivavano, stavano un anno. Poi riguardo quando c'è stata la C1 e la C2, allora magari per la serie D la C2 la C2 e la serie D c'è la meno, perché infatti chi vinceva un campionato di serie D comprava 3-4 elementi, un po' di esperienza di C, e l'anno dopo se non erano proprio cretini, metà classifica si salvavano, o medio bassa si salvavano in qualche maniera, non facevano grandi storie, però ecco si salvavano. Ora invece il balzo B e C e lega proprio a alto. È inevitabile che comunque con il passare del tempo cambino le cose anche a livello strutturale, anche a livello sportivo, ma tornando a parlare di Montevarchinità, potresti farci un'analisi su come è cambiata la città e la passione dei cittadini rispetto al Montevarchi in questi anni, anche in conseguenza alle recenti più o meno vicissitudini societarie per cui Montevarchi è fallito, rinato e ripartito? Il periodo peggiore è stato quello periodo dal 2007 al 2011. C'era 50 persone a vedere Montevarchi, una di quelle 50 ero io. Perché lì è stato perché è andato tutto a ramengo, per avventurieri. Poi si sono visti perché sono andati tutti in galera, squalificati. Perché Volpi, Rossi, Angela Lopez, mi è da ridere. Perez era. Perez. Che un noto giornalista locale disse che era forse parente di Florentino Perez, il presidente del Real Madrid. Non si sa quanto seriamente o quanto abbattuta, speriamo abbattuta. Mi viene da ridere perché insomma eravamo ridotti veramente male quando era Perez. Perez era agente FIFA. In che senso? Mi sembra che era della qualifica di agente FIFA, era procuratore anche. Addirittura? Dice, lavorava in Spagna. Ah, bisogna vedere che lavoro faceva. Che faceva il lavoro che faceva qui in Italia. Ah, però magari guadagnava abbastanza, evidentemente. Dovrebbero essere lavori ben remunerati di solito. Comunque dicevi, quelli erano anni abbastanza cupi, no? Poi da lì, in un modo o in un altro, la situazione sia da un punto di vista societario è ripartita e anche da un punto di vista cittadino. Il movimento ci ha fatto bene, perché erano arrivati certi persone. Quello lì, l'ultimo arrivato, quello di Roma, come si chiama? Sperlenga. L'imprenditore di insomma, questo qui rimase a Montevarchi due mesi e quello lì fu io lo vidi, ma per me era via c'è un'assemblea per me non sapeva dove voleva andare via dalla sala dell'espressura e prendeva invece di andare per le scale prendeva indietro che era un po' strano comunque. Ma Sergio, analizzando un po', facendo un po' di mente locale a quello che è successo in passato, dopo che il Montevarchi era stato gestito e diretto egregiamente per moltissimi anni da Alessio Losi, da Vasco Farolfi e altri, ma tutta gente comunque di Montevarchi, perché secondo te è arrivato il momento in cui per 5 anni praticamente si sono avvicendate persone non di Montevarchi che lo hanno piano piano portato alla rovina, portato al fallimento? Perché io penso una cosa, quando te tu stai tanto in un posto per motivi familiari, di lavoro, come ti pare, tu vuoi vendere, ti arriva una persona, ti dà 100.000 euro su lui e gli dici, bene, lo compro io e non ti sta a dire chi è, tanto io voglio andare via, tu mi dai i soldi, come l'ha fatto e poi e lì è stato io volevo andare via a tutti i costi, è arrivato questi qui 3 o 4, sono avvicendati 3 o 4 gruppi di persone, sempre imprenditori laziali, imprenditori campani, laziali, campani, insomma, una addirittura una cordata campano-laziale, mai visti e conosciuti nessuno, sono arrivati qui a ottobre, sono andati via a maggio, poi sono arrivato un altro. Poi ne sono arrivate e poi non ci si in fondo, Angela Perez, e poi in 5 anni ci sono stati 6 direttori sportivi, 10 allenatori, 200 calciatori, ma tanti risultati erano sempre belli. Arrivavi alla fine del campionato, ti salvavi. Un campionato solo si è fatto bene, quando c'era i Braghi, poi ti sei quarti, quinti, che vinse il suddetto, vinse il campionato, lo vinse Lucchese, che era fallita. Io mi ricordo che si giocò con la Lucchese che aveva 10 punti della seconda venne a Montepalchi, si fece 3-6 e si andò. Dopo si arrivò da Cini, si rientrò nel nostro corso. C'era il direttore sportivo di Grazia, quello presidente, il super presidente di San Giovanni, mi sa che ha fatto anche la gavetta con Sini. Tu hai nominato un nome che ancora forse avevamo evitato in un modo o in un altro di nominare, quindi mi viene anche da farti questa domanda. Cosa ti ricordi del lungo periodo del nostro amico, nemico, bandito Giuliano Sili, che a mio avviso è in realtà uno dei grandi responsabili della situazione per cui poi alla fine a Montevarchi è arrivata anche la Perez e compagnia? Sì, perché negli ultimi anni, gli ultimi 5-6 anni, dal 2000, praticamente dal 2000-2006, cadde il responsabile del 2006. Da quando ha lasciato nel 2009-2000 Farofi, è stato lui. Allora, come professionista di calcio, diciamo, io ero un buon professionista di calcio. Come un po' avventuriero, c'era la cassa, c'era il corso, non si è mai capito niente, nessuno sapeva nulla. Però alla fine del 2006 lui ha lasciato e già lì si muterà chi falliva nel 2006, era molto meglio. Probabilmente sarà stato fatto in modo che non fallisse, perché evidentemente qualcuno magari rischiava un po', perché probabilmente qualcosa era stato un po' nascosto in quegli anni, almeno così ho sentito dire, poi non voglio accusare assolutamente nessuno, però... Ma può darsi che sia stata così, io sai, mi sono da tifoso, mi sentivo un po' le cose, però se c'erano falliti allora si evitava 5 anni di purgatorio, 10 anni di purgatorio, da quando si riuscì a essere lì, i rossi... Quindi 10 anni di purgatorio si evitava, magari una squadra si manteneva una squadra in Serie D o si ritornava in Serie D subito, si faceva le cose oggi, era una cosa diversa, si andava solo Dio, non si andava a Porta Romana, non si andava pure Diavolo di Mondo laggiù, le capi di grano tutto. Sì, sì, presente. Diciamo che per non sacrificare qualcuno si è sacrificato la città e si è sacrificato la squadra. Fortunatamente i tifosi, che comunque la loro fede è stata messa a dura prova, in un modo o nell'altro ci sono sempre stati e sono tornati a crescere con il ritorno di risultati positivi, benché ripartendo da categorie umili. Te ne sei testimone anche di questo, no? La seconda categoria, non c'era in seconda categoria, c'era 150 buona, e quello sì, anche perché c'era la dirigenza seria, eh. Uno può contestare certe cose magari fatte perché è così, fondamentalmente a livello società, ora è una società seria, a volte sbaglia, ma ragazzi, accontentare tutti si può. Vedo, insomma, mi rendo conto che da quando ci sono questi qui, dal 2011, insomma, è che si è ritornati in Montevarchi una società seria come era prima, come era 15 anni fa, 10 anni fa. Vabbè, uno può contestare certe cose, certe scelte, certi presi di posizione, ognuno c'è il suo, anch'io contestare. Non si deve mettere in dubbio che come struttura di società, poi sai, il diritto dello spettatore pagante, in questo caso di tifoso, contestare uno spettacolo o una cosa. I limiti della decenza, dei limiti di cosa. Dunque, Sergio, continuiamo la nostra chiacchierata. Ora andiamo su argomenti un po' meno tristi rispetto al fallimento e rispetto alle gestioni poco allegre che, ahimè, ai Montevarchini è toccato sopportare. Parliamo dell'oggi, oggi che si stanno riaffacciando persone allo stadio, fortunatamente dopo tanti anni di vittoria e dopo che una società seria, come dicevi tu, e di Montevarchini, come aggiungo io, si è ripresa il possesso della squadra cittadina, si iniziano a rivedere anche le nuove generazioni, ragazzi intorno ai 15, intorno ai 20 anni, affacciarsi sulle gradone dello stadio, più o meno come lo eri tu quando sei arrivato a Montevarchi. Come vedi rispetto a voi di allora i ragazzi di oggi, e secondo te le persone che oggi iniziano a coltivare una passione come quella per la squadra cittadina, per l'identità cittadina che rappresentano, in questo caso la Montevarchinità, la tanto ricercata Montevarchinità. Secondo te c'è un futuro in questo oppure sarà molto difficile? Il futuro c'è perché i giovani c'erano anche oggi allo stadio, c'erano, io li vedo, ma no, ci sono i giovani ragazzi, è che magari qualche volta in qualche trasferta non vengono perché sono cotti dalla sera prima, ma no, ci sono, ci vengono, diversi li conosco, sono anche bravi ragazzi. E passiamo dai gradoni al campo. In tutti questi anni che tu segui Montevarchi con continuità, qual è stato secondo te il miglior calciatore, qualsiasi sia il ruolo, che ha indossato la maglia rossoblù? Secondo me, quell'anno che sapeva l'attacco con Mandini Corradi, che era in C, ecco, quello è stato il migliore. L'attacco migliore che si è avuto noi, con Mandini Corradi. E penso che sono andati tutti in Serie A. Ci sono stati anni in cui molti calciatori che sono passati da Montevarchi poi si sono ritrovati a calcare i campi di palcoscenici ben superiori come la Serie B e la Serie A. Non mi ricordo chi era. Il giocatore che ha segnato alla Fiorentina, alla Fiorenza Viola del 2002, Cellini, a 36 anni, gioca ancora e dopo essere stato girato molte squadre di Serie B, ora gioca in Eccellenza, mi sembra, qui in provincia di Arezzo, non mi ricordo quale squadra, ma a 36 anni gioca. In B ce ne abbiamo mandati tanti, in A questi due soli che sono. L'anno 90-91 c'era un attaccante che venne qui a Montevarchi e non fece veramente una mazza, infatti mi volevo dare, e tre anni dopo era Serie B, Montevarchi venne a svernare, non so come mai, non ricordo come si chiamava. Fu quello che nel 91, quando si andò a Terni a fare lo spareggio, il play out, sbagliò apposta quasi. E era lì che tu gli volevi dare, probabilmente. Ma anche prima, ti piccola. Eri stato già previdente, diciamo. Chiudiamo con questo ricordo, anche un po' triste, però comunque la piacevole chiacchierata con il nostro amico Sergio. Ringraziamo il nostro regista Sergio Leone, che stasera ci ha onorato della sua arte. Fumino, un saluto. Grazie a tutti, grazie a Sergio per essere stato con noi. Un saluto agli ascoltatori di Radio Big World e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie birra. Aspetta. Birra e salsicce. Presente per tutti i campionati. Ho accompagnato da solo, sì. Finisco la domanda. Niente, anche questa è una stronzata. Riparto. Uno dei motivi per cui noi. Ma in questo va bene, perché non conosce la FO, eh. Allora, da me ce n'è uno di Napoli, si chiama Diego Armando Maradona, che è nato nell'85-86. Davanti, mi ricordo anche della piazzetta dove c'è il parcheggio, perché prima c'era un bar che mi sa che ho detto che è chiuso. Perché a Leggero 9 le cose su 10 hanno chiuso. Non è facile venire a arbitrare a Montevarchi, diciamo. Specialmente allora. Si fa anche cazzata. E c'è il Berigno dove viene. Ricorda per lui. Uno c'è saltato dentro. Si faceva quelli più anziani, i settantenni, insomma, parlo degli anni 80. Sbaglia, è giusto dirvi no, se non ci sono d'accordo, si contesta anche il Papa. Ma la famosa, quello che chiamavano la rubrica del Bagliardo. Chi è la nutria del Bagliardo? Carpani. Ah! Carpani. poi in paragone di scivoli è il miglior attacco di Montevecchio, ma secondo me in quei giorni è quando serve a tarpare i Sansonini. La tigre dei Balcani. Arcan, che grande Sergio.